Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, questa è la mitica radio Onda d'Urto e questo è, soprattutto, Mystery Tour. Ciao da Enrico.